Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Eccoci qua, ciao Chiara. Oh, finalmente, ciao Federico, buonasera a tutti. Come incominciamo oggi? In un modo piuttosto divertente. Sì. Incominciamo da una domanda che ci è arrivata da Giuseppe, nostro ascoltatore di Bologna, che vuole sapere qualcosa sul sesso degli animali, in particolare sull'orgasmo. E poi invece continueremo con qualcosa di completamente diverso, gli acceleratori nel campo dell'innovazione. Che cosa sono? Che strumenti sono? E poi vi raccontiamo a modo nostro un libro, a nostro parere molto simpatico, bello, La sostanza delle cose, storie incredibili dei materiali meravigliosi di cui è fatto il mondo. E allora si parte. È giusto, è una gran bella domanda. Devo dire che è anche molto curiosa, ci saranno diversi aspetti da sottolineare, comunque sentiamo la domanda del nostro Giuseppe da Bologna. Buonasera, volevo chiedervi, l'estro animale è solo istinto ormonale oppure gli animali provano piacere sessuale? Bene, come sempre, anche in questo caso per Giuseppe, siamo andati insomma a cercare qualcuno che si fosse ampiamente informato. Ed ecco, abbiamo trovato una collega, Lisa Signorile. Buonasera Lisa. Buonasera a tutti. Benvenuta. Ci diamo del tu perché insomma sei collega, divulgatrice, giornalista di scienza e hai scritto un bel libro che si chiama Il coccodrillo come fa la vita sessuale degli animali. Edito da Codice, è uscito già l'anno scorso, però insomma contiene una serie di cose, tra cui insomma la risposta alla domanda del nostro Giuseppe. Partiamo da qui. Se per animali intendiamo i vertebrati, gli animali superiori come noi, possiamo assolutamente dire di sì. Per gli invertebrati comincia a diventare più difficile, in quanto essendo così diversi da noi, certe volte è difficile capire cosa li spinge. In realtà però per i vertebrati ne siamo abbastanza certi per due motivi. Primo, perché riprodursi è una gran fatica e se gli animali non avessero una ricompensa immediata probabilmente non si sottoporrebbero allo sforzo di cercare un partner, corteggiarlo, magari anche evitare di essere divorati, eccetera eccetera. Quindi sicuramente l'evoluzione in questo senso ha spinto verso una ricompensa immediata. Che questo esista ce ne accorgiamo quasi immediatamente anche guardando i nostri animali da compagnia e vedendo che molti animali indulgono in atti di autoerotismo. Se non ci fosse una ricompensa immediata certamente non avrebbe senso tutto questo. Certo, tu dici qualcosa che ci indica che c'è un piacere al di là dello scopo riproduttivo. Sì, ma ci sono anche altre ragioni. È stato visto in laboratorio, per esempio, con degli esperimenti sui topi, che mettendo un elettrodo in un particolare punto del cervello che si chiama setto, il topolino avrebbe dovuto evitare una zona del labirinto dove riceveva una piccola scarica elettrica e invece tornava sempre là, perché l'elettrodo in quella particolare zona del cervello gli dava un piacere paragonabile a un orgasmo. Quindi il topolino tornava in quella zona fino all'esaurimento. Alla fine costruirono una levetta per il topolino e il topolino preferiva tornare lì a premere la sua levetta piuttosto che andare a mangiare, quindi chiaramente c'era un meccanismo fisiologico immediato e si è visto che anche nelle persone, gli esseri umani rispondono esattamente alla stessa area. Nella stessa area del cervello. Nella stessa area del cervello, nel petto, c'è una zona del cervello responsabile degli orgasmi. E questa zona del cervello pare essere comune sicuramente ai mammiferi da questi esperimenti sui topolini. Quindi possiamo dire che per gli animali, per i mammiferi, sicuramente tutti i mammiferi provano piacere sessuale e in più sappiamo anche esattamente il punto del cervello da dove questo nasce. Che è simile al nostro, insomma. Ecco, è difficile fare un discorso ovviamente generale e generalizzato perché ovviamente ogni specie ha le sue caratteristiche. Però così, insomma, macroscopicamente ragionando, l'attività sessuale degli animali dura per periodi molto più brevi, addirittura per pochi secondi. Anche in questo caso però insomma c'è un appagamento, funziona così, un piacere. Attenzione, realtà per molti animali funziona esattamente il contrario, cioè che hanno accoppiamenti lunghissimi anche di giorni. Mi vengono in mente i bradipi che insomma sono notoriamente lenti. Ma loro sono lenti in tutto, certo. Esatto. sono casi in cui l'accoppiamento dura giorni. Cioè, c'è qualche... Se ci fai qualche esempio? Poi dipende, dal, come sempre, dagli adattamenti della specifica specie. Per esempio, nei nostri animali da compagnia, tipo i gatti, durano poco, però sono tantissimi e ripetuti, nel senso che una gatta si accoppia per diversi giorni, continuamente con tanti partner. Quindi, sebbene l'orgasmo sia breve... Certo, però infatti io avevo letto tempo fa che per esempio tra i leoni riescono a fare fino a 100 accoppiamenti al giorno, che sembra una cosa impressionante. Sì, i leoni maschi sì, anche perché loro hanno harem, tutti gli animali che hanno un harem chiaramente devono potersi accoppiare tante volte. C'è l'estremo, questa storia è bellissima, c'è un piccolo marsupialo australiano che si chiama l'antechino di palude, che durante la stagione degli amori il maschio smette di nutrirsi, smette di pulirsi, smette di dormire, smette di fare qualunque cosa, passa l'ultimo mese della sua vita alla costante ricerca di una compagna con cui accoppiarsi, si accoppia tantissimo e alla fine muore per esaurimento delle forze. Si esaurisce completamente, cioè si spegne praticamente. Alla fine restano solo femmine incinte, per un certo periodo non ci sono più maschi perché sono morti tutti di stress amoroso. Però in qualche modo hanno assicurato la riproduzione, quindi un'eredità. Però bisogna che nascano maschi e che diventino adulti rapidamente. Sì, chiaramente sono animali piccoli che hanno un ciclo vitale che dura un anno, quindi quando tutto nasceranno i nuovi piccoli, fondamentalmente si rimane senza maschi per il periodo in cui le femmine portano avanti la gravidanza e nascono i nuovi piccoli, poi ricomincerà il ciclo. Chiara, dobbiamo trovare una foto di questo qua, la mettiamo sul blog, perché la storia così non si può non sapere che faccia ha questo qua. La metteremo. No, poi Lisa, tu dedichi, in parte l'hai già introdotto, un intero capitolo del libro a appunto il sesso fai da te, l'autoerotismo, non so come lo vogliamo chiamare. Ecco, ci racconti insomma qualche storia anche su questo? Sì, anche qui siamo... Certe volte rimaniamo senza parole a guardare gli animali, ad esempio i nostri amici delfini, che sono tanto carini e tanto pucciosetti, in realtà sia i maschi che le femmine indulgono in atti di autoerotismo. C'è un famosissimo filmato su YouTube di un delfino che utilizza, chiaramente questi sono animali che non hanno le mani, quindi la vita si complica, utilizza un pesce decapitato. No. Non voglio poi entrare in dettagli, lascio all'immaginazione oppure a YouTube, perché il possiamo, video è... troviamo questo video. Come, anzi, dopo ci dirai ecco. Come cercarlo. Certo. Perché ormai siamo curiosissimi. Quindi diciamo che si organizzano, se non hanno zampe o mani, si organizzano con strumenti, utensili. Sì, assolutamente. Cioè, i delfini, ad esempio, normalmente per esempio usano spiagge con spiagge basse piene di ciottoli e si strofinano. No, considerando che questi sono animali acquatici, quindi hanno i genitali dentro una tasca, quindi per loro è un po' più, poi non hanno le mani, quindi per loro è un po' più complicato, però hanno utilizzano, sono organizzati, se la cavano. I primati sono bravissimi, gli orangutan, le femmine si fanno dei dildo della giungla utilizzando delle liane. Le femmine di scimpanzé sono molto stravaganti nella loro scelta di oggetti. Beh, quindi è una certezza che provano piacere, perché sennò perché tutto questo sbattimento non si capirebbe. Non si capisce dove porterebbe. Va bene, grazie Lisa Signorile. Ricordiamo il titolo di questo libro, Il coccodrillo come fa la vita sessuale degli animali, edizione Codice. Grazie Lisa, buon lavoro e grazie per la risposta. Ciao. Ma come si fa a capire che le cimici dei Materassi sono gay? Traffico, ciao, sentiamo il traffico. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Quando si parla di innovazione, che cos'è un acceleratore? È una struttura che serve a produrre innovazione in un modo particolarmente efficiente. Poi che cos'è un acceleratore nel campo delle biotecnologie? Di questo parliamo adesso, ne parliamo con Silvano Spinelli, che è il presidente di BioVelocita, che è appunto un acceleratore in questo campo. La prima domanda che gli ho fatto è: ci dia una definizione generale di acceleratore e poi in che modo invece si lavora con questo strumento nel campo, come dicevo prima, delle biotecnologie. Sentiamo Silvano Spinelli. Un acceleratore in termini generali è uno strumento, una società, può essere anche semplicemente un gruppo di manager, però più funzionalmente una società che ha come missione quella di mettere in contatto chi ha le idee nuove con chi ha le tecnologie per svilupparla e chi ha le risorse finanziarie appunto per utilizzare le tecnologie per sviluppare le idee. In modo più specifico nel campo biotech e quindi nello sviluppo di farmaci in qualsiasi area terapeutica, in Italia stiamo assistendo ad un fenomeno molto interessante. C'è molta ricerca di base, ci sono degli scienziati di altissimo livello e quindi c'è molta produzione di ricerca di base, di nuove idee per nuovi farmaci. Mm-hmm. Il problema è che questi nuovi farmaci sono tutti a uno stadio molto precoce, molto molto prima che i fondi specializzati di investimento possano anche valutare di investirci sopra. Quindi una di quelle situazioni un po' classiche italiane in cui facciamo molto bene un pezzo, magari molto bene anche un altro e poi c'è un buco, no? C'è un vuoto. E poi c'è un vuoto. Il nostro acceleratore si propone di riempire questo vuoto in modo strutturale. Perché in modo strutturale? Perché noi ci proponiamo di entrare in contatto con gli scienziati che hanno le idee, elaborare con loro un piano di sviluppo delle loro idee, prendere dei diritti proprietari su queste idee, finanziarle e mettere in contatto gli scienziati con chi ha le tecnologie e gestire proprio questa parte di sviluppo. Tutta questa attività a cosa deve portare? Deve portare a far sì che l'idea si trasformi in una nuova startup. Il nostro obiettivo è di creare nuove aziende in cui gli scienziati, se vogliono e se possono, possono essere coinvolti. Se non vogliono essere coinvolti, troveremo noi il management per queste nuove startup. Quindi vogliamo creare imprenditoria aziendale attorno alla ricerca in campo biotecnologico. Partite dall'idea che in generale sono un po' fragili, mentre invece esatto, con il vostro lavoro... Molto vero, sono molto fragili per due motivi. Il primo è che non hanno sufficienti fondi per colmare questo buco, come l'ha chiamato giustamente lei. E la seconda cosa è che purtroppo non hanno le competenze. Mm. Si definiscono competenze manageriali, con una brutta parola, ma sono quelle competenze che si sviluppano in ambito aziendale, farmaceutico, e sono le competenze che servono per trasformare un'idea in un farmaco. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa. Bisogna anche sapere come si fa a convincere i finanziatori a finanziare le idee, che non è proprio banale, perché occorre decodificare il contenuto scientifico della propria idea in termini che siano comprensibili e traducibili in un piano concreto. Sì, sì, sì, certo. Si deve far capire la mia idea è nuova per questo motivo. Per portarla a fruizione, per portarla fino al punto in cui ci sarà un incremento di valore e tu finanziatore puoi ritornare al tuo investimento, serve questo tempo e questi soldi. Sì, perché però... poi sembra strano, ma insomma uno può anche inventare la bacchetta che trasforma tutto in oro, ma non è detto che vada al mercato, no? Può sembrare strano, certo, ma è perché così. Perché devi dimostrare che funziona. Per dimostrare che funziona lo devi fare sotto certi... Con certi criteri, no? Sotto certi criteri e poi devi fare in modo che questi criteri poi siano accettabili dalle cosiddette autorità regolatorie. Certo. Perché non dimentichiamoci che se Dio vuole i farmaci ai cristiani, ma anche ai musulmani, certo, non si possono dare... Come le mele, no? Come le mele, no. E ricordiamo anche che l'iter per l'ingresso di un prodotto farmaco nel mercato è molto, ma molto più lungo, molto è più molto, delicato. È molto, molto lungo, quindi si parla di 10 anni. Quindi lei capisce benissimo che se uno per caso butta via 2 anni all'inizio facendo delle cose che non sono fatte con i sacri crismi, certo, questi anni diventano 12, per cui poi l'esclusiva del brevetto si riduce e tutto quella che è la cifra d'affari intorno al farmaco stesso diventa un valore ridicolo. Bene Spinelli, grazie e buon lavoro. Prego, grazie mille, grazie mille, arrivederci. Sì, sono veramente storie incredibili dei materiali meravigliosi di cui è fatto il mondo, ma non quelli solo contemporanei. Anzi, qui c'è tutta una storia in questo libro di Marka Miodovnik, un bel libro edito da Bollatti Boringhieri che si intitola La sostanza delle cose. Abbiamo tirato fuori un po' di casi, vuoi iniziare tu con il cucchiaio? Ciascun capitolo del libro è dedicato ad un materiale in particolare, quindi iniziamo con l'acciaio. E c'è tutto un aneddoto legato alle posate e al cucchiaio in particolare. Il cucchiaio di acciaio inossidabile, pensa Federico, è la prima posata che, ricoperta di ossido di cromo, e ricorda di cromo perché è un elemento importante, non rilascia particelle di ferro. L'acciaio, infatti, insieme al ferro e al carbone, se non è ricoperto di cromo, cosa succede? Fa la ruggine. Certo. Ecco, e poi lascia anche in bocca, lascerebbe quantomeno in bocca, un sapore di ferro, appunto. Sì, ma credo anche tutte le altre, insomma, praticamente è solo con l'acciaio cromato che abbiamo cominciato a scoprire i veri gusti dei cibi, no? E proprio appunto grazie al cromo si è potuto applicare questa lega all'acciaio in tantissimi ambiti, partendo dalle posate e non solo, nel senso che poi viene utilizzato in una vastissima gamma di prodotti, tra cui le lamette. E qui inizia la storia di King Camp Gillette, nome è tutto un programma. Non mi ricorda già qualcosa. Esatto, lui nel 1903 negli Stati Uniti si pone il problema di trovare delle lame d'acciaio che siano il più possibile sottili, sottilissime, e che però poi buttare via dopo l'uso. Si lavorava solo con il rasoio o addirittura con dei coltelli molto molto affilati e bisognava fare un sacco di lavoro appunto per tenerle affilati. Bene, lui trova questo primo esempio di Gillette, riesce a costruirlo. Nel 1904 vende 51 rasoi e 168 lamette, quindi ecco, un inizio un po' difficile come startup. L'anno dopo 90.000 rasoi e 123.000 lamette. Nel 1915, quindi in un anno e mezzo, la Gillette ha stabilimenti in Stati Uniti, Germania, Inghilterra. E non ha bisogno di altre presentazioni perché insomma lo sappiamo. Che singolare questa storia. C'è un altro capitolo del libro che si chiama Meraviglioso ed è dedicato alle schiume, e lo sai che io ho un po' il pallino culinario e quindi sono andata a leggermi la parte relativa alla gelatina alimentare, che è appunto una schiuma. Dal punto di vista della struttura chimico-fisica è un collante che viene tenuto insieme dall'acqua. Bene, c'è tutta una storia tecnologica che si è evoluta negli ultimi 20 anni e che, partendo dalla gelatina, arriva ad altri gel, perché invece dell'acqua si può sostituire con la polvere di silice, e poi fino all'aerogel, che viene molto utilizzato nello spazio perché è uno dei materiali in assoluto più leggeri ed è una schiuma rigida però, e quindi viene un po' in mente il polistirolo, insomma, sì, per ecco, intenderci, come immagine greda, certo. Però l'aerogel è così leggerissimo, però è molto isolante, quindi un portentoso isolante termico, e infatti viene utilizzato sia in edilizia che nello spazio proprio con queste caratteristiche, con queste potenzialità. Invece a me ha divertito molto la storia che riguarda la scoperta del cemento armato. Pensate un po', che nasce da un giardiniere francese, Joseph Monnier, che curava grandi giardini. Adesso siamo nella metà dell'Ottocento. Lui si era stufato di avere a che fare con i vasi di argilla cotta, i classici vasi che continuamente classici. Si rompono, ecco, soprattutto quelli grandi. Allora prese del cemento e gli buttò dentro nell'impasto degli anelli d'acciaio. Ma era un'idea grezza, istintiva, e i vasi non si rompevano più. Lui naturalmente non poteva immaginare che l'acciaio si combina molto bene, reagisce con il cemento, e non poteva sapere che quello che viene fuori è appunto una miscela che è molto elastica e quindi non genera fratture. La frattura viene fuori dalla rigidità e quindi il vaso si rompeva. E lì davvero da un semplice vaso da giardino ha tirato fuori chissà che. Ecco, E tra l'altro c'è una particolarità, se vogliamo ricordarla, c'è un monumento italiano a Roma, il Pantheon, che è famoso per la sua cupola, e quella lì è la cupola più grande, pensa, senza essere stata costruita con il cemento armato. È cemento, ma non è cemento, non è armato. Sta in piedi perché è molto pressato. I romani avevano capito che se pressavano molto, tenevano stretto, stava in piedi. Da allora però poi si è usato il cemento armato. Però a 2000 anni. Esatto. Questo. Allora, poi invece il capitolo sulla carta contiene tantissime storie ed aneddoti, ma a me è incuriosito l'ultima parte. Questa ecco. Non la sapevo. Secondo te, le banconote da cosa sono costituite? Dalla carta, avresti detto. Io ho sempre pensato carta molto pregiata. Molto pregiata, molto. E invece no. No. Non è carta, diciamo, classica di cellulosa, che si ricava dagli alberi, ma è carta di cotone. La quindi stoffa, sì, si ricava da fibre vegetali, fibre, ovviamente sì. Sempre, però non è cellulosa. E proprio questa particolarità dell'essere costituita dal cotone, dalle fibre, permette tutte quelle che sono le caratteristiche peculiari di una banconota, quindi il fatto che ci possa essere la filigrana, il fatto che ci possano essere delle colorazioni degli inchiostri particolari, insomma questa è la caratteristica. E poi ovviamente la poca riproducibilità, perché è un meccanismo insomma, molto è costoso. Molto pregiato. Va bene, leggetevelo La sostanza delle cose, Mark Miodovnik, Bollatti Boringhieri. Ahimè però, Federico, per oggi è tutto e noi ci risentiamo settimana prossima. Buone vacanze ovviamente a tutti. Buone vacanze a tutti.